2008, micidiale, è micidiale. Oh, dopai, ogni notte, a Cagliari, a Bologna, a Roma, a Milano, in tutta Europa, in tutto il mondo, coppai, aio. Io lo vedo, man. Come ogni notte in tutte le città, strade deserte e puttane dentro ai club. Su viali l'ennesima squadrina tossica e più avanti una bionda che non la fa lavorare. Padri di famiglia carichi di dinero girano per le strade urlando mucho te quiero, scambiando nigeriane per il Rio de Janeiro. Che sanno di borotalco mischiato con culero. Amici che vedono amici nei piali, amici caricano amiche sui viali. Che dici per scopartela non hai le credenziali. No money, no cash, zero capitali. E sono noti che è passato solo in compagnia. Notte girando a toglie in prima periferia. Pochi sanni davvero che succede per quella via. Tra puttane chi enti, papone e polizia. Ma lei mi è vista questa scena. Ogni notte in Italia c'è qualcuno sempre in piena. Io l'ho già vista, stravista sta scena. E solo chi la vive conosce retroscena. Ma lei mi è vista questa scena. Ogni notte in Italia c'è qualcuno sempre in piena. Io l'ho già vista, stravista sta scena. E solo chi la vive conosce retroscena. Ogni notte è sempre un film già visto. Risse a coltellate fuori dalla disco. Ogni istante che passa sempre meno ci capisco. L'effetto sale e sono in botta di fisso. Passi speed e trip, MDMA, morfina, funghi e catch. Ho più roba coca e crack, meglio go alla tech. Ma quanti coglioni whack, finti punk a bestia. Gira con Postplay e Mac, butta fuori stile Corona in frac. Gente che scarrella pure nell'altra sala. Scoppia la rissa per un semplice fuck. C'è troppa gente butta fuori, si caga. E c'è chi se la vibra correndo più di Ibra. Li vedi dopo due ore sempre più veloci di prima. Tu che stai fermo, c'è lo stronzo che ti mima. Io che mi faccio una raglia e mi incanto un'altra cima. Ma lei mi è vista questa scena. Ogni notte in Italia c'è qualcuno sempre in piena. Io l'ho già vista, stravista sta scena. E solo chi la vive conosce retroscena. Ma lei mi è vista questa scena. Ogni notte in Italia c'è qualcuno sempre in piena. Io l'ho già vista, stravista sta scena. E solo chi la vive conosce retroscena. Al quanto pare il gatto piange, bisogna pippare. Pippa la più potente, la tua scimmia può contrastare. Da constatare che ogni notte sono milioni di millini che seguono strisce parlate di mille colori. Sostenitori, gli amici della coca. Dalla cannuccia corta, dal moto sotto a chi tocca. L'ultima tacca nel cielo per farsi l'ultima botta di coca. Con due piedi nella cacca, una pistola nella bocca. C'è chi tocca, ogni notte il fondo. Di media di giorno non passa manco un secondo. Ed è nuovamente in fogno, così in tutto il mondo. Io sono sveglio amico, questo non è un sogno. Ma lei mi è vista questa scena. Ogni notte in Italia c'è qualcuno sempre in piena. Io l'ho già vista, stravista sta scena. E solo chi la vive conosce retroscena. Ma lei mi è vista questa scena. Ogni notte in Italia c'è qualcuno sempre in piena. Io l'ho già vista, stravista sta scena. E solo chi la vive conosce retroscena. Flash. Yeah.